sa che non ha futuro. Sente già le spalle al muro, un ramoscello troppo debole, s'aggrappa la sua vita fragile. Lui non ha le tasche piene, svuotate da soldi ha riempito le vene. È stato un gesto poco nobile, è stato un gesto poco nobile. Una coscienza diventata troppo impura combatte i propri demoni scacciando la paura. E non ha più cura di sé, e non ha più cura di sé. Ma in fondo ci piace così, non gli diamo da mangiare come fosse nostro cane. Ma in fondo ci piace così, è un po' duro ma non chiede, non fa mai la cosa giusta. Ma in fondo ci piace così.